Sedetevi, soggiunse, trovando a sua volta posto nella poltrona più vicina e gettando via cappellino e guanti con un'istintiva assenza di formalità, quando si trattava di un importante problema di destino. Quello che dite ora giustifica la mia opinione, disse Lydgate. Io penso che una delle funzioni di un medico consista nell'impedire il più possibile rimorsi di quel genere. Ma vi prego di osservare che il caso di Mr. Casbo è esattamente del genere in cui è estremamente difficile pronunciarsi sull'esito. Può darsi che viva per 15 anni o più, senza una salute molto peggiore di quella di cui ha goduto finora. Dorothea si era fatta pallidissima e quando Lydgate si arrestò disse a bassa voce: Volete dire se facessimo molta attenzione? Sì. Attenzione a evitare agitazioni mentali di ogni genere e all'applicazione eccessiva. Sarebbe un derelitto se dovesse rinunciare al suo lavoro, disse Dorothea, prevedendo assai in fretta quella condizione sventurata. Ne sono consapevole. L'unica via è di tentare in tutti i modi, diretti e indiretti, di moderare e variare i suoi interessi. Con una fortunata coincidenza di circostanze, non vi è, come vi ho detto, nessun pericolo immediato di quella malattia di cuore che credo sia stata la causa del suo recente attacco. D'altro canto, è possibile che la malattia si possa sviluppare con maggiore rapidità. È uno di quei casi in cui la morte giunge talvolta improvvisa. Non si dovrebbe trascurare nulla che potrebbe condurre a un simile esito. Per alcuni attimi tutto fu silenzio, mentre Dorothea sedeva come se si fosse trasformata in marmo, sebbene la vita all'interno di lei fosse così intensa che la sua mente non aveva mai prima da allora passato in rassegna in un lampo un'uguale gamma di scene e cause. Aiutatemi, vi prego, disse infine con la stessa voce sommessa di prima. Ditemi cosa posso fare. Cosa ne dite di un viaggio all'estero? Ultimamente siete stati a Roma, mi pare. I ricordi che le rivelavano l'assoluta inutilità di questo espediente furono una nuova scossa che fece uscire Dorothea dalla sua pallida immobilità. Oh, quello non servirebbe, sarebbe peggio di qualsiasi altra cosa, disse con un abbattimento quasi infantile mentre le lacrime le scendevano sul volto. Non andrà bene nulla che non gli piaccia. Avrei voluto potervi risparmiare questo dolore, disse Lydgate, profondamente commosso eppure stupito da questo matrimonio. Le donne simili a Dorothea non facevano parte delle sue precedenti esperienze. Avete fatto bene a dirmelo. Vi ringrazio di avermi detto la verità. Desidero che sappiate che io non dirò nulla per chiarire la situazione a Mr. Casabo stesso. Giudico desiderabile che egli non sappia altro tranne che non deve lavorare troppo e deve seguire certe regole. L'ansia di qualsiasi genere sarebbe proprio la condizione più sfavorevole per lui. Lydgate si alzò e Dorothea si alzò meccanicamente allo stesso tempo, slacciandosi la fibbia del mantello e gettandolo via come se la soffocasse. Egli stava inchinandosi e sul punto di andarsene quando un impulso, che se fosse stata sola si sarebbe risolto in una preghiera, le fece dire con un singhiozzo nella voce: Oh, voi siete un uomo saggio, non è vero? Sapete tutto della vita e della morte. Datemi un consiglio. Pensate cosa posso fare. Egli ha faticato per tutta la vita ed è pieno di speranze. Non gli importa nient'altro e a me non importa nient'altro. In seguito, per anni, Lydgate ricordò l'impressione prodotta in lui da quell'appello involontario, questo grido di un'anima a un'altra, consapevole di null'altro che di muoversi con nature affini nello stesso confuso mezzo, la stessa vita travagliata e illuminata a tratti. Cosa poteva dire ora, se non che sarebbe tornato a visitare Mr. Casable il giorno dopo? Quando se ne fu andato, Dorothea diede libero sfogo alle lacrime e si liberò del senso di soffocante oppressione. Poi si asciugò gli occhi, ricordandosi che non doveva rivelare il proprio dolore al marito, e rivolse uno sguardo alla stanza, pensando che doveva ordinare al domestico di curarsi di essa come al solito, dal momento che ora Mr. Casebo poteva desiderare di entrarvi in ogni momento. Sul suo scrittoio vi erano lettere che non erano state toccate dal mattino in cui si era sentito male e fra di esse Come Dorotea ben ricordava, c'erano le lettere del giovane Ladislav, quella indirizzata a lei ancora intatta. I ricordi di queste lettere erano stati resi ancora più dolorosi da quell'improvvisa malattia che lei credeva l'agitazione causata dalla sua ira avesse potuto contribuire a provocare. Aveva avuto tempo a sufficienza per leggerle quando le erano state di nuovo riproposte ed essa non si era sentita di andarle a prendere dalla biblioteca. Ma ora le passò per la mente che dovessero essere nascoste alla vista del marito, quali che fossero stati i motivi della sua irritazione, e gli doveva, se possibile, non venire irritato nuovamente. E per prima lesse velocemente la lettera indirizzata a lui per assicurarsi se fosse più o meno necessario scrivere per prevenire la visita sgradita. Will scriveva da Roma e cominciava dicendo che i suoi obblighi nei confronti di Mr. Casebra erano troppo grandi perché tutti i ringraziamenti non sembrassero irriguardosi. Era chiaro che se egli non gli fosse stato grato, avrebbe dovuto essere il mascalzone più vile che avesse mai trovato un amico generoso. Dilungarsi in espressioni di ringraziamento sarebbe stato come dire sono onesto, ma Will era giunto a rendersi conto che i propri difetti, i difetti che Mr. Casebra stesso le aveva spesso indicati, avevano bisogno per venire corretti di quella dura condizione della vita che la generosità del parente fino ad allora gli aveva risparmiato. Egli confidava di ripagarlo nel modo migliore, se ripagarlo era possibile, mostrandogli l'efficacia dell'educazione di cui gli era debitore e cessando in futuro di avere la necessità che fossero stornati a suo favore dei fondi su cui altri avrebbero potuto vantare maggiori diritti. Stava per tornare in Inghilterra per tentare la fortuna, come erano obbligati a fare molti altri giovani il cui unico capitale stava nel loro cervello. Il suo amico Neumann aveva desiderato che si prendesse cura lui della disputa, il quadro dipinto per Mr. Casebra, che col suo permesso e quello di Mrs. Casebra, Will avrebbe portato a Lowick di persona. Una lettera indirizzata a ferma posta a Parigi nel giro delle prossime 2 settimane gli avrebbe impedito, se necessario, di arrivare in un momento inopportuno. Accludeva una lettera per Mrs. Casebra, in cui continuava una discussione sull'arte iniziata con lei a Roma. Aperta la propria lettera, Dorotea si rese conto che era una vivace continuazione della sua protesta contro la fanatica partigianeria di lei e il suo bisogno di un vigoroso godimento neutrale delle cose così come erano. Un'effusione della sua giovane vivacità che era impossibile leggere al momento. Doveva decidere immediatamente cosa bisognava fare per l'altra lettera. Forse restava ancora tempo per impedire a Will di venire a Lowick. Dorotea finì per dare la lettera allo zio che si trovava ancora in casa e chiedergli di far sapere a Will che Mr. Casebra era stato malato e che il suo stato di salute non gli consentiva di ricevere alcuna visita. Nessuno era più disposto di Mr. Brooke a scrivere una lettera. La sua unica difficoltà era di scriverne una breve. E le sue idee in questo caso si svilupparono su 3 ampie pagine e le rispettive facciate interne. Egli aveva semplicemente detto a Dorotea: «Certo, scriverò, mia cara. È un giovanotto molto intelligente questo giovane Ladislav. Oserei dire che è un giovanotto che si farà strada. È una bella lettera, rivela il suo senso delle cose, capisci? Comunque gli dirò di Casebra». Ma l'estremità della penna di Mr. Brooke era un organo pensante che formava frasi, soprattutto di tipo benevolo, prima che il resto della mente di lui potesse controllarle. Essa esprimeva il rincrescimento e i consigli che, quando Mr. Brooke li rileggeva, gli parevano formulati in modo appropriato. Sorprendentemente, ciò che lui voleva dire determinava una serie di idee a cui egli non aveva mai pensato. In questo caso, la penna giudicò che fosse stato un tale peccato che il giovane Ladislav non fosse venuto in paese a quel tempo, in modo che Mr. Brooke potesse fare meglio la sua conoscenza ed essi potessero riguardare insieme i disegni italiani da tempo trascurati. Appena si trovò così interessata a un giovanotto che cominciava ad affrontare la vita con un bagaglio di idee, che alla fine della seconda pagina essa aveva persuaso Mr. Brooke a invitare il giovane Ladislav, dato che non poteva venire ricevuto a Lowick, a venire a Tipton Grange. Perché no? Avrebbero potuto trovare un sacco di cose da fare assieme e questo era un periodo di particolare sviluppo. L'orizzonte politico si stava aprendo e in breve la penna di Mr. Brooke si lasciò andare a un piccolo discorso che aveva ultimamente redatto per il Pioneer di Middlemarch, quell'organo di informazione imperfetto. Mentre Mr. Brooke sigillava la lettera, si sentì euforico per l'influsso di oscuri progetti. Un giovanotto in grado di dare forma alle sue idee, l'acquisto del Pioneer alla fine di sgombrare la strada per un nuovo candidato, documenti utilizzati. Chissà cosa poteva nascere da tutto questo. Dal momento che Celia si sarebbe sposata entro brevissimo tempo, sarebbe stato assai gradevole avere un giovanotto a tavola con lui, almeno per una volta. Ma se ne andò senza informare Dorotea di ciò che aveva scritto nella lettera, perché lei era occupata col marito e in effetti queste cose non avevano alcuna importanza per lei. Capitolo 31. Quella sera Lydgate parlò a Miss Vincey di Mrs. Kesabo e pose un certo accento sull'attaccamento che essa sembrava avere per quello studioso affettato di 30 anni più anziano di lei. Naturale che sia devota al marito, disse Rosamond, sottintendendo l'idea di una conseguenza necessaria che l'uomo di scienza giudicò la più carina possibile per una donna. Ma essa pensò allo stesso tempo che non era poi così spiacevole essere padrona di Lowick Manor con il marito che probabilmente sarebbe morto di lì a poco. La giudicate molto bella? Bella l'ho certamente, ma non ci ho pensato. Suppongo che non sarebbe professionale, disse Rosamond facendo la fossetta. Ma come si sta espandendo la vostra attività? Siete stato chiamato prima dai Chatham, mi pare, e adesso dai Kesabo. Sì, disse Lydgate col tono di un'ammissione forzata, ma in realtà non mi piace occuparmi tanto di questa gente. Preferisco i poveri. I casi sono più monotoni e bisogna sopportare più cerimonie e ascoltare con maggiore deferenza delle stupidaggini. Non più che a Middlemarch, disse Rosamond, e almeno lì percorrete ampi corridoi e sentite il profumo di petali di rosa ovunque. Questo è vero, Mademoiselle de Montmorency, disse Lydgate, chinando appena il capo verso il tavolo e sollevando con l'indice il fazzoletto fine di Rosamond che si trovava in cima alla sua borsetta di rete, come per goderne il profumo mentre la guardava con un sorriso. Ma questa gradevole libertà che sapeva di vacanza con cui Lydgate si muoveva attorno al fiore di Middlemarch non poteva continuare all'infinito. Non era possibile trovare isolamento sociale in quella città più che altrove, e due persone che insistevano ad amoreggiare non potevano in nessun modo eludere le varie complicazioni, i pesi, i colpi, gli scontri e i moti grazie ai quali le cose procedono tutte in vario modo. Qualsiasi cosa Miss Vincey facesse doveva venire notato, e forse lei era ancora più osservata da ammiratori e critici. Perché proprio ora Mrs. Vincey, dopo qualche discussione, era andata con Fred a Stone Court per restarci un po' di tempo, non esistendo altro modo di accontentare il vecchio Featherstone e allo stesso modo tenere d'occhio Mary Garth, che, mano a mano che Fred guariva, sembrava diventare una nuora sempre meno desiderabile. La zia Bulstrode, per esempio, veniva un po' più spesso a Lowick Gate a trovare Rosamond ora che era sola, perché Mrs. Bulstrode provava per il fratello un vero sentimento di sorella, sempre pensando che avrebbe potuto fare un matrimonio migliore, ma augurandogli bene ai suoi figli. Ora Mrs. Bulstrode era da lungo tempo intima di Mrs. Pimdale. Avevano quasi le stesse preferenze in fatto di seta, modelli per la biancheria intima, oggetti di porcellana e preti. Si confidavano a vicenda i loro piccoli problemi di salute e di amministrazione della casa e vari piccoli elementi che conferivano una certa superiorità a Mrs. Bulstrode, vale a dire una serietà più decisa, una maggiore ammirazione per le cose della mente e una casa fuori città. Servivano talvolta a dare colore alla loro conversazione senza dividerle. Erano entrambe donne piene di buone intenzioni, pur essendo assai poco consapevoli dei loro motivi. Mrs. Bulstrode faceva una visita mattutina a Mrs. Pimdale, disse per caso che non poteva trattenersi più a lungo perché doveva andare a trovare la povera Rosamond. Perché dite povera Rosamond? Chiese Mrs. Pimdale, una donnina spigolosa dagli occhi rotondi, simile a un falcone ammaestrato. È così carina ed è stata allevata in modo così sconsiderato. La madre, vedete, ha sempre avuto quella leggerezza che mi fa stare in ansia per i figli. Bene, Harriet, se posso dire quello che penso, fece Mrs. Pimdale con enfasi. Devo dire che chiunque supporrebbe che voi e Mr. Bulstrode dovreste essere contentissimi di ciò che è successo, perché voi avete fatto di tutto per favorire Mr. Lydgate. Selina, cosa volete dire? Fece Mrs. Bulstrode, sinceramente sorpresa. Nulla se non devo ringraziare il cielo per amore di Ned, disse Mrs. Pimdale. Lui potrebbe certamente permettersi di mantenere una moglie simile più di tanta gente, ma mi augurerei che cercasse altrove. Comunque, Una madre ha le sue preoccupazioni e alcuni giovanotti potrebbero prendere una brutta piega come conseguenza di un fatto simile. Inoltre, se fossi obbligata a dire come la penso, direi che non ero entusiasta che degli estranei venissero in città. Non lo so, Selina, disse Mrs. Bulstrode con un po' di enfasi anche lei. Mister Bulstrode è stato un estraneo qui una volta. Abramo e Mosè erano stranieri e ci viene ordinato di accogliere gli stranieri. E soprattutto, soggiunse dopo una breve pausa, quando sono irreprensibili. Non parlavo in senso religioso, Harriet, parlavo come madre. Selina, sono certa che non mi avete mai sentito opporre in alcun modo al matrimonio di una mia nipote con vostro figlio. Oh, è l'orgoglio di Miss Vincey, sono certa che non è altro, disse Mrs. Pimdale, che mai prima di allora si era confidata completamente con Harriet sull'argomento. Nessun uomo a Middlemarch era buono per lei, ho sentito sua madre dire così. Non è spirito cristiano? Questo io penso. Ma adesso, da quello che sento, ha trovato un uomo orgoglioso quanto lei. Non vorrete dire che c'è qualcosa fra Rosamond e Mr. Lydgate? Chiese Mrs. Bulstrode, piuttosto mortificata nello scoprire la propria ignoranza. È possibile che voi non lo sappiate, Harriet? Mi muovo così poco, i pettegolezzi non mi vanno. Davvero, non ne ascolto mai nessuno. Voi vedete tanta gente, più di me. Il vostro circolo è piuttosto diverso dal nostro. Beh, ma si tratta di vostro nipote e del grande favorito di Mr. Bulstrode. E anche vostro, Harriet, ne sono certa. Una volta ho pensato che l'aveste destinato a Kate, quando sarà un po' più grande. Non credo che ci possa essere nulla di serio al momento, disse Mrs. Bulstrode. Mio fratello me l'avrebbe certamente detto. Beh, la gente si comporta in modo diverso, ma capisco che nessuno possa vedere Miss Vincey e Mr. Lydgate assieme senza pensare che siano fidanzati. Comunque, non sono affari miei. Devo prendere il modello delle manopole? Dopo questo colloquio, Mrs. Bulstrode si recò in carrozza da sua nipote, con l'animo gravato da un nuovo peso. Era vestita con molta eleganza, ma notò con un po' più di dispetto del solito che Rosamond, che era appena entrata e le venne incontro col vestito da passeggiata, portava degli abiti quasi altrettanto costosi. Mrs. Bulstrode era una versione femminile in formato ridotto del fratello e non aveva nulla del pallore abbattuto del marito. Aveva un bello sguardo onesto e non ricorreva a circonlocuzioni. Sei sola, come vedo, cara, disse guardandosi attorno con aria grave mentre entravano assieme nel salotto. Rosamond si sentiva certa che la zia aveva qualcosa di particolare da dirle e si sedettero l'una vicino all'altra. Comunque, la piegatatura all'interno del cappellino di Rosamond era così incantevole che era impossibile non desiderare la stessa cosa per Kate. E gli occhi di Mrs. Bulstrode, che erano piuttosto acuti, fecero il giro di quell'ampio orlo piegettato mentre parlava. Sono appena venuta a sapere una cosa su di te che mi ha sorpreso moltissimo, Rosamond. Che cos'è, zia? Anche gli occhi di Rosamond vagavano sull'ampio colletto ricamato della zia. Non posso crederci. Che tu sia fidanzata senza che io lo sappia, senza che tuo padre me lo dica. A questo punto, gli occhi di Mrs. Bulstrode si posarono su quelli di Rosamond, che avvampò intensamente, disse: Io non sono fidanzata, zia. Com'è che tutti lo dicono allora? Che in città ne parlano tutti? Le chiacchiere della città non contano granché, credo, disse Rosamond in cuor suo compiaciuta. Oh, cara, sii più sensata, non disprezzare così il tuo prossimo. Ricorda che hai compiuto i 22 anni adesso e non avrai sostanze. Tuo padre, ne sono certa, non potrà darti nulla. Mr. Lydgate è molto intellettuale e intelligente. So che queste qualità hanno delle attrattive. Anche a me piace parlare con uomini simili e tuo zio lo trova molto utile. Ma la sua professione non è ben remunerata qui. Certo, questa vita non è tutto, ma accade di rado che dei medici abbiano delle concezioni veramente religiose. Il loro vi è troppo orgoglio intellettuale e tu non sei fatta per sposare un povero. Mr. Lydgate non è un povero, zia. Ha dei parenti molto altolocati. Me l'ha detto lui stesso che era povero. Questo è perché è abituato a vivere con gente che ha un tenore di vita elevato. Mia cara Rosamond, non devi pensare a vivere nel lusso. Rosamond abbassò gli occhi e giocherellò con la sua borsetta di rete. Non era una ragazza focosa e non sapeva rispondere in modo offensivo, ma aveva intenzione di vivere come le pareva. Allora è proprio vero, disse Mrs. Bulstrode guardando molto seriamente la nipote. Stai pensando a Mr. Lydgate? Vi è una certa intesa fra voi due, sebbene tuo padre non lo sappia. Sii sincera, mia cara Rosamond. Mister Lydgate ha davvero fatto una proposta? I sentimenti della povera Rosamond erano assai imbarazzanti. Era stata del tutto certa del sentimento e delle intenzioni di Lydgate, ma ora che la zia le aveva posto la domanda, non le andava di non essere in grado di dire sì. Il suo orgoglio era ferito, ma il suo consueto autocontrollo le venne in soccorso. Vi prego di scusarmi, zia. Preferirei non parlare dell'argomento. Non daresti il tuo cuore a un uomo privo di prospettive definite, spero, mia cara. E pensa alle due eccellenti proposte che so che hai rifiutato. È una ancora portata di mano se non vuoi buttarla via. Conoscevo una bellissima ragazza che alla fine fece un cattivo matrimonio, comportandosi così. Mister Ned Plymdale è un giovanotto simpatico. Qualcuno potrebbe giudicarlo attraente. È figlio unico. E una grossa attività commerciale di quel genere è meglio di una professione. Non che sposarsi sia tutto. Vorrei che prima cercassi il regno di Dio. Ma una ragazza dovrebbe saper comandare al cuore. Se fosse così, non lo darei mai a Mister Ned Plymdale. L'ho sempre rifiutato. Se amassi, amerei subito e non cambierei più, disse Rosamond, tutta presa dall'idea di essere un'eroina romantica e sostenendo il ruolo con grazia. Capisco come stanno le cose, disse Mrs. Balstrow con voce malinconica e alzandosi per andarsene. Hai acconsentito a impegnare i tuoi affetti irrevocabilmente? No, veramente, zia, disse Rosamond con enfasi. Allora sei completamente certa che Mr. Lydgate provi per te un sentimento sincero? A Rosamond le guance ormai bruciavano senza interruzione e si sentiva assai mortificata. Preferì non dire nulla e la zia se ne andò tanto più convinta. Mister Bulstrode, nelle cose mondane e rilevanti, era incline a fare ciò che gli ordinava la moglie e questa ora, senza dire le sue ragioni, voleva che alla prossima occasione propizia egli scoprisse, conversando con Mister Lydgate, se aveva alcune intenzioni di sposarsi presto. Il risultato fu una decisa risposta negativa. Mister Bulstrode, interrogato a sua volta, dimostrò che Lydgate aveva parlato come uno che non avesse nessuna passione che poteva sfociare in un matrimonio. A questo punto Mrs. Bulstrode capì che un serio dovere l'attendeva e in breve riuscì a combinare un tête-à-tête con Lydgate, durante il quale passò da domande sulla salute di Fred Vincey ed espressioni della sua sincera preoccupazione per la numerosa famiglia del fratello, a osservazioni generiche sui pericoli a cui potevano andare incontro i giovani riguardo a una sistemazione nella vita. I giovanotti erano spesso sfrenati e deludenti, dando in cambio ben poco per i soldi spesi per loro, e una ragazza era esposta a molte circostanze che potevano interferire con le sue prospettive. Soprattutto quando lei ha grandi attrattive, i suoi genitori vedono molta gente, disse Mrs. Bulstrode. I gentiluomini le fanno la corte e la monopolizzano per il mero piacere del momento, e ciò allontana gli altri. Penso che sia una pesante responsabilità, Mr. Lydgate, interferire con le prospettive di una qualsiasi ragazza. A questo punto, Mrs. Bulstrode fissò lo sguardo su di lui, con lo scopo lampante di ammonirlo, se non proprio di rimproverarlo. Certamente, disse Lydgate guardandola, forse addirittura fissandola un po' a sua volta. D'altro canto, uno deve essere un gran bell'imbusto per andare in giro con l'idea che non deve fare la corte a una signorina, altrimenti questa si innamorerà di lui. Oppure che gli altri pensino che è dovere di lei farlo. Oh, Mr. Lydgate, voi sapete bene quali sono i vostri vantaggi. Sapete che i nostri giovanotti non possono tenervi testa. Se frequentate una casa, ciò può militare a sfavore della sistemazione desiderabile di una ragazza e impedirle di accettare delle proposte, anche se queste le venissero fatte. Lydgate fu meno lusingato da questo vantaggio sugli Orlando di Middlemarch di quanto non fosse irritato da quello che egli si rendeva conto che Mrs. Bulstrode voleva dire. E capiva di aver parlato con la solennità necessaria e che nell'usare la roboante parola militare aveva disteso un nobile drappeggio su una massa di particolari che comunque restavano abbastanza evidenti. Lydgate si stava adirando un po'. Si spinse i capelli indietro con una mano, si tastò con l'altra il taschino del panciotto con curiosità e quindi si inchinò verso il piccolo spaniel nero che ebbe la perspicacia di rifiutare le sue carezze sincere. Non sarebbe stato educato andarsene, perché aveva cenato assieme ad altri ospiti e aveva appena preso il tè. Ma Mrs. Bulstrode, non dubitando di essere stata compresa, cambiò argomento di conversazione. I proverbi di Salomone, credo, hanno tralasciato di dire che come la lingua batte dove il dente duole, così una coscienza imbarazzata intuisce le allusioni. Il giorno seguente, Mr. Fairbrother, nel separarsi da Lydgate per strada, disse che forse si sarebbero incontrati a casa dei Vincey la sera. Lydgate rispose seccamente di no, aveva del lavoro da fare, doveva smetterla di uscire la sera. Cosa? Avete intenzione di farvi legare all'albero e di chiudervi le orecchie? Disse il parroco. Bene, se non avete intenzione di farvi conquistare dalle sirene, fate bene a prendere delle precauzioni in tempo. Qualche giorno prima, Lydgate avrebbe preso queste parole come il consueto modo di esprimersi del parroco. Adesso gli parve che contenessero un'insinuazione che lo confermava nell'impressione di aver fatto lo stupido e di essersi comportato in modo da essere frainteso. Non così credeva da parte di Rosamond. Lei ne era sicuro, prendeva tutto con la sua stessa leggerezza. Aveva un tatto e una perspicacia finissimi per quello che riguardava ogni aspetto delle buone maniere. Ma le persone in mezzo alle quali viveva erano dei pasticcioni e degli intriganti. Tuttavia l'errore non avrebbe avuto seguito. Decise, e si attenne alla propria decisione, di non recarsi a casa di Mr. Vincey, tranne che per motivi di lavoro. Rosamond divenne assai triste. Il senso di disagio dapprima suscitato dalle domande della zia crebbe sempre più finché, dopo 10 giorni che non vedeva più Lydgate, divenne terrore per l'insuccesso che sarebbe potuto seguire, presagio di quella spugna pronta e fatale che con grossolanità spazza via le speranze dei mortali. Il mondo le si sarebbe presentato come una nuova desolazione, come un deserto che l'incantesimo di un mago aveva trasformato per un po' in un giardino. Avvertì che stava cominciando a conoscere il dolore dell'amore deluso e che nessun altro uomo avrebbe potuto offrirle il materiale per quel delizioso castello in aria di cui aveva goduto negli ultimi 6 mesi. La povera Rosamond perse l'appetito e si sentì abbandonata come Arianna, come un'incantevole Arianna attrice lasciata indietro con tutti i suoi cassoni pieni di costumi, senza la speranza di trovare una carrozza.